Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E il peggio sono le domeniche. Una di queste, subito dopo pranzo, mia madre lancia l'idea di un giretto sulle colline bolognesi. Ha sentito una collega parlare di un mercatino, anzi no, di una fiera. Insomma, due bancarelle buttate in una piazzetta gelida, praticamente vuota. È un weekend senza Formula 1, quindi mio padre dice che sì, si potrebbe anche fare. Cercano di coinvolgermi, riesco però a sottrarmi. Questa è una conquista recente. Fino ad un annetto fa la mia presenza a queste gitarelle non sarebbe stata neppure messa in discussione. Potere dell'arrivo dell'adolescenza. Ciao, mi chiamo Matteo, abito in provincia di Ferrara e convivo con la mia ragazza e la mia bimba piccola. Avete presente il momento immediatamente successivo a quando si scopre un segreto? Un segreto non nostro, ovviamente, un segreto di una persona che ci sta vicino in qualche modo. La sensazione, la cosa che è capitata a me tutte le volte che mi è capitato di scoprirlo, una volta per caso, una volta invece no, di proposito, l'ho proprio cercato, è stata che avevo bisogno di muovermi. Cioè era come se a un certo punto non potessi più stare nel posto in cui mi trovavo, non potevo più rimanere lì a leggere la cosa che stavo leggendo, non potevo più stare in quella casa. E in entrambi i casi, una volta ho preso una bicicletta perché ero bambino e sono andato in giro per il paese, e una volta invece ero un po' più grande, non ero a casa mia e sono uscito a correre praticamente vestito con i jeans e le scarpe addosso, ho corso tipo un'ora e mezza sudando tutto il sudabile. È come se il segreto, quel segreto lì, quella verità che scopri, non riuscissi a tenerla dentro e la dovessi espellere con il sudore. Vi dico questa cosa perché nel racconto di Matteo, che è un racconto bellissimo, e anche se è il 5 di gennaio e state facendo qualcosa o magari state semplicemente aspettando che arrivi il 6 e poi il lunedì per riprendere a lavorare, ecco, vi consiglio di ascoltarlo bene questo racconto, perché è bellissimo e perché c'è stato anche un po' di coraggio da parte di Matteo per raccontare questa cosa. E quindi quei segreti lì, quei segreti che scopri, in particolar modo quando si tratta dei propri genitori, sono segreti che vanno sudati fuori, in qualche modo. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. C'è però anche un profilo Facebook che è sempre quello lì, anche nel 2012, si chiama Matteo Caccia, io sono qui. E ad esempio Daniela mi ha scritto a proposito di scoperti, di segreti scoperti dai genitori, che Daniela, ho saputo in età adulta che mia mamma aveva un fratellastro che viveva in Francia, figlio del primo forse marito di mia nonna. Non ho mai capito bene la storia perché non è mai stata chiarita completamente. Certo è che quando l'ho saputo mi sono chiesta come facevano a vivere sapendo di questo figlio fratello segreto che non è mai stato nominato una sola volta, manco per sbaglio. Mi dai però l'occasione per riparlarne con mia madre. Aia, qua forse era meglio evitare di toccare un tasto, Daniela. Mi dai l'occasione per riparlarne con mia madre, ma essendo ormai novantenne si è creata un'immagine della realtà tutta sua. Ma è fortunatamente a 90 anni ci si crea un'immagine della realtà tutta nostra. Gianfranco, a me è successo, è caduto il mondo addosso in quel momento, è cambiato il piano del rapporto tra verticale e orizzontale. Il problema è che io ero pronto al cambio e loro no. Però non mi dici qual è il segreto, Gianfranco, io voglio sapere qual è il segreto. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it, oppure semplicemente rimanete lì, alzate il volume della radio, perché la storia di Matteo è una piccola storia che riguarda anche tutti noi. Nella pianura padana il cielo a novembre è sempre uguale, sempre, dal mattino quando ti svegli fino a metà pomeriggio, quando si fa sempre più scuro. Le nuvole ti avvolgono come una coperta, grigia e apparentemente ininterrotta. Anche scrutando l'orizzonte non riesci mai ad intravedere uno squarcio di luce, niente, tantomeno cambi di colore. Ecco, per un ragazzino di 14 anni, questo è il mese più noioso dell'anno. A ottobre qualche giornata tiepida e soleggiata c'è ancora, e una partitella al campetto con gli amici la si riesce sempre a fare. E poi, se ancora in piena sbornia post-estate, il ritorno a scuola, le chiacchiere sulle vacanze al mare. Dicembre invece è il mese di Natale, quindi anche solo strappare la pagina del calendario e vedere quel 25 rosso fa letteralmente volare via i giorni successivi. Ma a novembre non c'è niente di tutto questo. E il peggio sono le domeniche. Una di queste domeniche, subito dopo pranzo, mia madre lancia l'idea di un giretto sulle colline bolognesi. Ha sentito un collega parlare di un mercatino, anzi una fiera. Insomma, due bancarelle buttate lì in una piazzetta gelida praticamente vuota. però è un weekend senza Formula 1, quindi mio padre dice che sì, si potrebbe anche fare. Cercano di coinvolgermi, ma non so come riesco a sottrarmi. Questa è una conquista recente. Fino ad un annetto fa la mia presenza a queste gitarelle non sarebbe neppure stata messa in discussione. Potere dell'arrivo dell'adolescenza. Ma erano i primi momenti di solitudine, i primi momenti in cui prendevi quasi possesso di casa, no? Ti sentivi un po' il padrone della casa e potevi fare cose che i tuoi genitori, volendo, non potevano venire a sapere. Quindi era una delle prime sensazioni di essere grandi, insomma, nonostante avessi praticamente 14 anni, quindi in realtà ero tutt'altro che grande. Caffè, lavaggio piatti, bacio sulla fronte e le solite raccomandazioni. Si infilano la giacca ed escono, lasciandomi solo in casa. Sono ancora sul ciglio della porta, li sto salutando, e intanto penso, magnifico, PlayStation o Serie A in TV? Rientro in casa, butto distrattamente l'occhio sul tavolino all'ingresso e vedo il cellulare di mia mamma. Se l'è dimenticato, un classico. Lo afferro, esco di fretta con già l'urlo di richiamo, ma mi si tronca in gola. La macchina è già uscita dal vialetto e ha imboccato la strada provinciale. Poco male, tanto non la chiama mai nessuno. Lo riappoggio dove era e me ne dimentico completamente. E intanto schiaccio il pulsante power sulla console. Passa forse un'oretta e all'improvviso sento una suoneria metallica con la pretesa di assomigliare a Per Elisa di Beethoven che avvolge tutto l'ingresso. Sospendo la partita, lancio il joystick sul letto e mi avvicino al telefonino. Cerco il nome sul display, ma non c'è. Si legge solo un numero, che però non conosco. È strano perché io ho buona memoria e i numeri dei parenti più stretti li ho imparati tutti. Questo invece mi sfugge. Vabbè, penso che qualcuno probabilmente si sarà fatto una scheda nuova. Schiaccio il tasto verde e rispondo timidamente. Pronto? Dall'altro capo, silenzio. Si sente solo il ronzio della comunicazione aperta. Esito un momento, pensando a cosa aggiungere, ma vengo preceduto da una voce maschile che dice: «Ehi, Mara, sei tu? Puoi parlare o c'è tuo marito?» Io distinto aggancio e non so quanto tempo passa. So solo che quando torno vagamente lucido mi trovo a stringere con forza il cellulare tra le mani e per il resto sono completamente immobile. Mi scuoto e cerco di razionalizzare la cosa, di pensare che va tutto bene, che ho capito male, che ho frainteso. Sì, è chiaro, non c'è altra spiegazione. Mentre guardo il cellulare, questo si illumina di nuovo. È arrivato un messaggino. Il mittente è il solito numero. Cerco di combattere a tutti i costi contro il bisogno di capire cosa stia succedendo, ma cedo inevitabilmente, premo e leggo. «Scusami, so che non dovevo chiamarti, ma avevo bisogno anche solo di sentire la tua voce». Smarrimento, cioè, nel senso, non capivo neanch'io bene che cosa significasse, perché avevo intuito che non era nessuno che io conoscessi e che la mia famiglia conoscesse. Quando ho intuito quello sono stato completamente spiazzato, sono rimasto muto, in silenzio, cercando una qualsiasi soluzione logica all'interno della mia testa, ma non me ne veniva nessuna finché la comunicazione si è interrotta. Sbatto il telefonino sul tavolo, afferro la giacca e la indosso, metto sciarpa, guanti, recupero le chiavi di casa e la bici in garage, poi esco e inizio a pedalare, e pedalare, e piangere, e pedalare ancora, fino a sentire il cuore che pulsa nel collo invece che nel petto. Faccio scendere la cerniera del giubbotto perché sto sudando da bestia. L'aria fredda autunnale impatta sul maglione e piano piano inizio a calmarmi. Accosto e butto la bici in terra, tra un fosso e l'asfalto. Mi ci siedo di fianco e aspetto. Non so assolutamente cosa sto pensando, ma mi va di fare così. Ricado in questo limbo dove il turbinio di pensieri nella mia testa è talmente fitto che nessuno di loro ha il sopravvento. Rimango così, frastornato, sul ciglio di questa strada di campagna. Dopo un po' inizio a sentire freddo, troppo freddo. Devo tornare a casa. Parcheggio la bici e rientro. I miei genitori sono appena tornati. Mia mamma mi accoglie subito con un rimbrotto per non avere lasciato nemmeno un bigliettino per dire dove andavo. Fortuna che tuo padre ha fatto un salto giù in garage visto che mancava la bici, se no ci preoccupavamo sul serio. Io abbozzo un sorriso fintissimo e deglutisco senza saliva. Lei si accorge subito del mio sguardo fisso su di lei. Mi chiede se va tutto bene e io di nuovo fintissimo rispondo «Sì, certo». E poi aggiungo «Mamma, hai dimenticato il cellulare a casa. Stai più attenta la prossima volta. Vorrei non ricapitasse più». Io vedo chiaramente il dubbio attraverso la testa. Glielo vedo. Gliela passa da parte a parte, da orecchio a orecchio. La muove impercettibilmente, come ad annuire. Poi va a recuperare il cellulare. mentre io vado a farmi una doccia bollente. Non parlammo mai più di questa storia, né tra di noi, e tantomeno con mio padre, ovvio, o altre persone. O perlomeno non l'ho fatto io. I miei genitori sono tuttora sposati, sono stati e sono ancora oggi tra le persone più importanti della mia vita, di cui vado orgogliosissimo per il modo in cui mi hanno cresciuto e il modo in cui mi hanno voluto bene. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. A casa dei miei nonni, da piccolo, c'era sempre la settimana enigmistica. Loro la compravano per i cruciverba e per tutti quegli altri giochi da grande. Io invece guardavo le barzellette. E poi leggevo due rubriche che mi hanno insegnato cose inutili e divertenti. Erano spigolature e forse non tutti sanno che. Erano una serie di curiosità sui fatti del mondo. Roba spicciola, da tre righe via. Per quello che mi piaceva. E poi c'era sempre un disegnino, una piccola immagine che accompagnava le parole e per me funzionava come i fumetti, mi tirava dentro. Ecco, da allora ogni volta che scopro qualcosa che forse potevo anche già sapere, ma in effetti non sapevo, mi viene in mente quella pagina della settimana enigmistica. E mi capita anche quando mi accorgo di qualcosa che era lì sotto i miei occhi, ma che non avevo mai veramente osservato. Ecco, il racconto di Matteo, che è un racconto magnifico, mi ha ricordato di quella volta in cui io ho visto i miei con uno sguardo diverso. L'avevo già raccontato a dicembre, mi pare, qualche mese fa. Avevo già scoperto che non erano Superman e signora i miei genitori. Avevo già capito che anche mio padre era un uomo normale. Cioè, non era un uomo qualunque, ovviamente, perché era mio padre. Però avevo capito che aveva le sue debolezze, aveva la sua umanità, la sua normalità. Quello che non avevo ancora visto, però, era il retroscena. C'è un libro molto bello che si chiama Oltre il senso del luogo. È un libro in cui l'autore, che è uno studioso israeliano, dice una cosa molto semplice, anche se ci mette 500 pagine. In sostanza dice che nella vita, in ogni situazione, si recita una parte. E sempre c'è un palco e un retropalco. In sostanza serve a spiegarci che la televisione non è la verità, ma solo una messa in scena di una storia, che è stata organizzata da persone che fanno un sacco di cose che noi non possiamo vedere. E che questa cosa succede spessissimo anche nella vita reale. E che tra le persone esistono dei segreti che spesso è giusto mantenere. È una cosa che si impara con il tempo, crescendo. Che sì, la si impara, ma non la si mette mai veramente a fuoco. Se l'avessi saputo quando ho aperto il cassetto del comodino di mio padre a 13 anni, non mi sarei sentito così in colpa, probabilmente. O forse, anzi, meglio, quel comodino lì non l'avrei nemmeno provato ad aprire. Perché da quel momento in poi ho pensato che io e i miei genitori non li conoscevo, che erano dei gran bugiardi, che magari avevano dei figli che io non sapevo, o una doppia vita, che erano tipo spie russe, o dei robot. Dal giorno in cui ho visto dei preservativi nel comodino di mio padre, io ho visto il retroscena, ho visto il dietro le quinte. E non ne avevo solo uno, no? In mano, quando li ho presi, ne avevo una scatola intera. Certo, se ci avessi trovato una pistola sarebbe stato più grave, probabilmente. Ma a 13 anni invece forse no. Avrei pensato che mio padre la teneva lì per proteggerci, magari, sarei stato fiero. E invece i preservativi significavano molto di più. Volevano dire che loro due non solo erano due persone normali e vulnerabili, ma che facevano delle cose di nascosto da me e da mia sorella. È un po' come quando da ragazzini ci si chiude a chiave in bagno, no? È perché certe cose sono private. Si chiama comune senso del pudore. Però vallo a dire a un bambino di 13 anni. E allora lì ho pensato che, forse non tutti sanno che, anche i nostri genitori sono delle persone come gli altri e hanno i loro segreti. E ci ho messo un bel po' a capire che forse, alla fine, è giusto così. Scusa, ne sai perché? Sta di casa Già i segreti in sé non sono facili da scoprire, per lo più. Spesso non sono facili da tenersi per sé, però in realtà io credo che sia ancora più difficile certi segreti raccontarli, soprattutto se magari non sono i tuoi e tu li hai scoperti. Andare in giro a raccontarli può essere abbastanza complicato, magari anche difficoltoso. Ecco perché io sento veramente una sorta di debito di riconoscenza nei confronti di Matteo per averci raccontato questa storia, per averla fatto in quel modo così bello, ma soprattutto per aver condiviso questo pezzo della sua vita. Pronto Matteo? Sì, ciao. Ciao, io sono Matteo, mi piace sempre fare questa scenetta del Matteo sono Matteo, basta, adesso la chiudo qua, anche perché altrimenti diventa orribile. Grazie davvero innanzitutto per questo pezzo di storia. Senti, tu avevi 14 anni quando è successo. Sì, esatto. E adesso quanti ne hai più o meno? Adesso ne ho il doppio. Ne hai il doppio? Ne hai 28. Quindi esattamente metà della tua vita, metà della tua vita fa è successa. Sì, è successo metà della mia vita fa. Sì. Senti, più o meno questo episodio, mi verrebbe da dire di no, da come tu hai chiuso il tuo racconto, ma in qualche modo ha cambiato la tua vita? Ma sì, in effetti non lo ha fatto, perché subito dopo che è successo questo episodio è stato tirato su un muro sia da me che da mia madre, che certo. non ha permesso, insomma, che potesse cambiare qualcosa. Diciamo che è rimasto tutto come prima, anche se sotto sotto per me, ma credo anche per lei, qualcosa sia rimasto. Ma tu hai mai sentito l'esigenza vera però di prendere e dire: oh mamma, facciamo quattro chiacchiere? No, ok. So che può sembrare assurdo. No, guarda, al contrario, io credo che avrei fatto probabilmente di peggio proprio, magari avrei fatto proprio finta di... Cioè, quando... Guarda, ricordo ancora il giorno in cui un mesetto fa ho letto il tuo racconto e... vabbè, dico una banalità ovviamente, quando dico che ogni volta che leggo un racconto cerco di capire come l'avrei vissuta io, soprattutto se ti tira dentro come ha fatto il tuo racconto, anche per come è scritto. Però io ho avuto esattamente, mi sono fatto esattamente quella domanda lì, cioè mi sono chiesto cosa avresti fatto. Sì, al mio posto. E io credo che probabilmente, forse, cioè io ho già trovato del coraggio nel tuo averle detto che non succede mai più di che tu hai lasciato il cellulare a casa. Forse non avrei nemmeno avuto la forza di fare quello. E tra l'altro un'altra cosa che pensavo e che quindi volevo chiederti è che in realtà probabilmente la capacità nell'accettare una cosa del genere sta nel saper dividere la figura della mamma da quella della moglie. Cioè, che la mamma è la mamma, però è anche la moglie, no? Per cui forse in realtà le due cose dovrebbero rimanere separate. Forse no, magari sto dicendo una boiata. No, in effetti è vero, nel senso è un mondo che... sono due mondi diversi, se vogliamo dirla così. Cioè, una può essere una bravissima madre e magari avere qualche pecca come moglie, però dal mio punto di vista di figlio... sì, forse non è stato facile, ma sono riuscito a separare le due cose, oppure è solo l'istinto del quattordicenne che ti permette di fare queste cose, perché se l'avessi scoperto adesso probabilmente sarebbe stato diverso. Sì, certo. Sarebbe successo qualcos'altro. Forse da quattordicenne sei un po' incosciente, un po' non capisci, perché ti confesso che molte delle cose le ho capite dopo. Lì per lì è una cosa troppo grande. Un gran casino, immagino. Sì. Un gran casino. Senti, pensi che gliene parlerai mai? Non credo, sai, perché ormai il momento è passato. Certo. Poi tirar fuori cose che ormai sono abbastanza sepolte. Poi, non insomma... ascolta Radio 24 tua mamma? Spero proprio di no. No, sono abbastanza certo di no. Diciamo che è un po' più... una radio un po' più frivola, un po' diciamo più Rete così. 105 tipo, ecco, sì, hai colto se, al volo le senti, no? Tu sei fidanzato, Matteo? Sì, convivo con la mia ragazza. Da quanto? Convivo da 2 o 3 anni ormai. Ah, wow, da 28 anni, quindi siete insieme da tanto? No, in realtà è stato immediato. Un mezzo colpo, sì, nel giro di pochi mesi siete a convivere, poi adesso abbiamo una bimba piccola, insomma. Ah, magnifico. È cambiata la vita a breve, sì. Lo immagino. Nel giro di poco. Senti, ha mai lasciato il cellulare a casa? Chi, la mia ragazza? Sì. Ma sì, credo che sia successo, però fortunatamente non è mai squillato. No, la domanda sembrava stupida, però in realtà è questa cosa che ti è successa, perdonami, però sono molto curioso di solito in generale, sì. Lo sono ancora di più, questa cosa che ti è successa 14 anni fa ha cambiato o hai avuto la sensazione che abbia cambiato il tuo rapporto con le donne, la tua fiducia nei confronti delle donne? No, Okay. Non ci ho mai pensato, però così al volo, se devo risponderti ti dico di no, perché è stata una situazione talmente tanto particolare, diciamo, che non l'ho mai inquadrata a livello globale, cioè non ho mai detto l'ha fatto mia mamma, lo possono fare. No, ma infatti guarda Matteo, ma mi rendo conto che è una domanda da psicologia della coin, come direbbe il mio amico Bordone, quindi figuriamoci, era proprio, ho provato a mettere un piede dove non dovevo andare. Senti Matteo, tu 5 di gennaio sei al lavoro, mi ha detto Margherita prima, che lavori anche il 5 di gennaio? Sì, quest'anno fortunatamente c'è molto lavoro. Cosa fai? Faccio siti web, sono uno sviluppatore di siti web. Ok, senti Matteo, allora ti lascio andare a lavorare perché devo chiudere, però ti ringrazio davvero ancora tanto per il racconto e per la chiacchierata. No, figurati, grazie a voi della trasmissione che è davvero, davvero bella. In bocca al lupo per la tua bimba. Grazie. Ciao, buona giornata Matteo, grazie. Ciao. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Matteo non si vede in viso, è una foto intera, piano americano, no, piano americano è a metà, vabbè, insomma, si vede solo la silhouette perché è probabilmente al mare, il sole è alle spalle e lui è in una posa tipo un indiano che guarda l'orizzonte con la mano portata sopra gli occhi a coprirseli dal sole, ma non si vede, è una sagoma nera che probabilmente è in costume da bagno e torso nudo. Qualcuno mi ha scritto, tra l'altro, il problema non è che se è stata la mamma di Matteo ad ascoltare la puntata, ma se è stato il papà ad ascoltare la puntata. Effettivamente non ci avete tutti torti, avrei dovuto chiedere se è il papà ad ascoltare la D24. Però evidentemente Matteo stava in una botte di ferro, probabilmente Matteo non si chiama neanche Matteo, ed è giusto che sia così. D'altra parte la cosa che chiedo è di raccontare una storia vera, non per forza di darmi il vostro vero nome. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Sono arrivati altri messaggi sul profilo Facebook del programma, uno è Manuela: io ho scoperto che mio padre era andato da mia madre con 6 monete d'oro antiche, perché poi alla fine appunto i segreti spesso si tengono o perché fanno paura o perché riguardano una parte di noi che non vogliamo che nessuno scopra o semplicemente perché ci mettono in imbarazzo, e questo è il caso. Manuela: io ho scoperto che mio padre era andato da mia madre con 6 monete d'oro antiche comprate da uno zingaro per 100.000 lire, era il 1979. Era convinto di aver fatto un affare e mia madre aveva subito scoperto che non era d'oro. Lui era così mortificato che mia madre gli aveva promesso di non dirlo mai a nessuno, se lui però prometteva di non fare più affari senza consultarla prima. Mi sembra, una volta a me è successa una roba del genere, ero con mio padre ed eravamo in una stazione, non so più nemmeno quale, ce l'avete presente gli uomini, quelli che fanno il gioco delle tre, non delle tre carte però, usano le palline, quelle da nascondere, e mio padre, che mi aveva sempre detto non avvicinarti a quella gente, in realtà si era fermato, aveva puntato una roba tipo 10.000 lire, i soldi erano diventati 20, poi 50.000 lire e poi erano chiaramente spariti, cioè li avevano presi, e mio padre mi disse non raccontarlo mai alla mamma. In realtà questa roba era venuta fuori tipo, non era un giorno di Natale, però una roba del genere, qualche anno fa: papà, ti ricordi quando ci hanno fregato i soldi al gioco delle tre palle? E lì mia mamma ha veramente la capacità di imbestialirsi come se fosse passata un'ora invece che 10 anni. Massimo: ho 42 anni e ho scoperto 4-5 anni fa che mia madre, quando era incinta di me, ha dovuto subire un'operazione e aveva detto al chirurgo, il chirurgo le aveva chiesto se deve scegliere tra lei e il bambino, cosa sceglie, e lei disse: scelgo me perché ho altri 2 bambini a casa da far crescere. Onestamente allora ci sono rimasto male, 4-5 anni fa, beh, quindi aveva 37 anni Massimo. Ora invece lo capisco perché ho 2 figli anch'io. 349-238-6666, i piccoli segreti che avete scoperto dei vostri genitori, e comunque andiamo sempre lì. Giulio: nulla più dei profilattici nel comodino, ma ormai era abbastanza grande. E invece Erika dice: a 7 anni mio papà mi ha detto che il preservativo che avevo trovato era un sacchetto per portare il cibo quando andavo in montagna. Doppio genio il padre. C'è un libro che sicuramente conoscete, e se non l'avete letto avete visto il film, si chiama Io non ho paura, è un libro che ha scritto Niccolò Ammaniti qualche anno fa, adesso non ricordo nemmeno più esattamente, però ve lo dico, era il stampato 2001, Eh sì, era il 2001. In cui c'è un bambino che scopre un enorme segreto. È il segreto di suo padre, ma anche di altre persone. Però per lui, in sostanza, è il segreto del papà. Il romanzo, insomma, è ambientato nel 1978, che è stata l'estate più calda del secolo. Credo che lo sia stata prima di quella del 2003. Ma tant'è. In un sud immaginario, è un romanzo molto bello. È un romanzo di formazione che parla di paura e parla di segreti da scoprire. E i segreti, in questo caso, sono legati a quelle paure. E c'è un pezzo che è esattamente il momento appena dopo la scoperta di questo segreto, quando il protagonista, che è un bambino di mi pare, non mi ricordo, 14 o 15 anni, no, 9 anni, a 9 anni Michele, scopre questo segreto, che non è altro che un bambino che è tenuto sequestrato sotto a un... Vabbè, se non l'avete letto ve lo sto dicendo, ma chi se ne frega, non è un thriller, è comunque bello, che viene stato sequestrato dal padre e da altri amici e viene tenuto nascosto sotto terra, sotto a una lastra di metallo. L'ha scoperto e la cosa che gli viene da fare, un po' come la cosa che è venuta da fare a Matteo, che è come la cosa che secondo me viene da fare a tutti quando scopri un segreto, è correre via il più velocemente in bicicletta e sperare che il papà ti spiegherà tutto. Pedalavo, mi infilavo tra buche e cunette, rischiando di spezzarmi la schiena, ma non frenavo. Il cuore mi esplodeva, i polmoni mi bruciavano. Ho preso un dosso e mi sono ritrovato in aria, e poi a terra. Respira, mi sono detto. Respiravo e sentivo il cuore placarsi, il fiato tornare normale e improvvisamente mi è venuto sonno. Mi sono sdraiato, ho chiuso gli occhi. Sotto le palpebre era tutto rosso. La paura c'era ancora, ma era appena un bruciore in fondo allo stomaco. Il sole mi scaldava le braccia gelate. I grilli mi strillavano nelle orecchie, il ginocchio mi pulsava. Quando ho riaperto gli occhi, delle grosse formiche nere mi camminavano addosso. Sono salito sulla bici e ho ripreso la strada di casa. Mentre pedalavo, continuavo a vedere il bambino morto che si sollevava e stendeva le mani verso di me. Quella faccia scavata, gli occhi chiusi, la bocca spalancata, continuavano a balenarmi davanti. Ora mi appariva come un sogno, un incubo, che non aveva più forza. Era vivo. Aveva fatto finta di essere morto. Forse era malato, o forse era un mostro. Un lupo mannaro, ecco cos'era. Un lupo mannaro, di notte diventava un lupo. Lo tenevano incatenato lì perché era pericoloso. Avevo visto alla televisione un film di un uomo che nelle notti di luna piena si trasformava in un lupo e assaliva la gente. I contadini preparavano una trappola. Il lupo ci finiva dentro e un cacciatore gli sparava. Il lupo moriva e tornava uomo. Era un farmacista. E il cacciatore era il figlio del farmacista. Ecco, quel bambino lo tenevano incatenato sotto una lastra coperta di terra per non esporlo ai raggi della luna. I lupi mannari non si possono curare. Per uccidergli bisogna avere una pallottola d'argento. Ma i lupi mannari non esistevano. Me lo diceva papà. Piantala con questi mostri, Michele. I mostri non esistono. I fantasmi, i lupi mannari, le streghe sono fesserie inventate per mettere paura ai cretini come te. Devi avere paura degli uomini, non dei mostri. Mi aveva detto così, papà. Un giorno che gli avevo chiesto se i mostri potevano respirare sott'acqua. Ma se lo avevano nascosto lì, ci doveva essere una ragione. Papà mi avrebbe spiegato tutto. Little yellow spider laughing at the snow. Oh, maybe that spider knows something that I don't know, 'cause I'm goddamn cold. And hey there, little albatross swimming in the air. Ah, oh, come on, you know I can't fly, and I think we really ought to play fair. And hey there, Mr. Happy Squid, you move so psychedelically, you hypnotize with your magic dance all the animals in the sea, for sure. Ettore mi scrive al 349-238-6666 che lui, quando ha scoperto un segreto pesante, non dice quale, legato ai suoi genitori, non gli è venuto per niente da correre, è rimasto gelato, lui dice nel messaggio, per diversi minuti. Sì, è vero, ed è la prima cosa che capita anche a Michele Amitrano nel romanzo di Ammaniti, ed è la cosa che capita anche a Matteo nel suo racconto, però poi secondo me a me viene voglia di correre. Daniele dice, sì, io l'ho scoperto, un segreto dei miei, ma non te lo dico perché sono fatti loro, e fai benissimo, per ora, perché me l'hai scritto, perché adesso lo vorrei sapere invece. Peppe, io non ho ancora scoperto niente, mi devo preoccupare? Evidentemente sono bravissimi a custodire i loro segreti, o sono comunque sicuramente più bravi di me. Poi ce n'era un altro, questa di Silvano è magnifica. Ti posso dire che io non ho ancora mai visto mia madre in sottoveste. Però anche lì, secondo me, non è così male, perché la mamma rimane la mamma e la moglie lo rimane col padre. Forse mischiare i ruoli, vabbè, ma anche questa è veramente la psicologia della coin, quindi mi ci fermo. Alessandro, i segreti tipo una sorella di cui non sapevi l'esistenza? Mazza, anche meno, però va bene così. A mia moglie è successo questo. Ebbene, allora in bocca al lupo a tua moglie. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Margherita Ina, Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e soprattutto Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Matteo e parlava dei segreti dei genitori. Quella di domani invece è la storia di Lucia e racconta del primo dolore che non si scorda mai. A Samuel avevo detto che era un asino perché mi prendeva in giro con la palla. E allora lui, che era sciocco e dispettoso, per vendetta si avventò sulla mia bellissima bicicletta rosa, il regalo di mamma e papà per il mio 10° compleanno. Così il pomeriggio di giochi si concluse con una litigata epocale come solo i bambini riescono a mettere in piedi, tra me e Samuel. Con Alessia che stava dalla mia parte e Marcello da quella di Samuel. Femmine contro maschi, maschi contro femmine. Un autentico parapiglia. Si sfiorò addirittura il fratricidio.